andare sulla collina, ma comunque i nostri perché padri... il vescovo ha visto che la tua fiammella era alla collina, si è spenta e quindi siamo andati verso di te. Abbiamo bruciato il libro, molto importante, abbiamo bruciato il libro. Sì. Quale? Quello delle visioni. Quello... Ma non l'abbiamo già bruciato da mo'? No, era l'ultima sessione. Non è... È l'ultima sessione, infatti. Ma non il libro che ti ha dato l'uomo che ride? Sì. Ah no, cazzo, no, c'ha ragione Sirio. Fa? Fatto c'ha ragione Sirio, okay. Esatto. Sì. Se iniziavamo la sessione subito dopo? Sì, sì, ma giusto, è successo da mo' sta roba. Cioè, no, prima no, del combattimento... Vabbè, comunque, andiamo avanti. I nostri cari amici vanno sulla collina, fanno un giretto sulla collina finché non trovano un mucchio di fango davanti a un tasso, l'albero. Morto completamente il tasso, e morto anche colui che è completamente coperto dal fango. Vanno a dare un'occhiata, solo che questo corpo, dopo un paio di battute, di scambi, si rialza in piedi dopo che mi fa visto che era morto quella creatura, quel corpo. Tutti no, si no, gambe questo in corpo mano... l'ha toccata, cioè l'ha buttata via, tipo una roba simile, non mi ricordo. Yes. Eccoci. Ritroviamo Adone che giustamente guarda un po' confusi i propri compagni perché hanno fatto tutti un cambio di sesso, tranne Nibel. Purtroppo. E allora a quel punto ci si ritrova, si parla un pochino. Adone racconta che ha fatto cose, generico, sapevano tutti cosa ha fatto, e dopodiché iniziano a scendere. Adone ha fatto incazzare Mif, ora sicuramente ha detto qualcosa, ma non mi ricordo cosa in questo momento, quindi Adone ha fatto incazzare Mif, niente di nuovo dal fronte occidentale. E... scendiamo dalla collina e fra le varie cose decidiamo di andare al bordello per cercare una certa Promezia che sta cercando, che Libra sta cercando. E scusatemi un secondo. Vabbè, dai. E andiamo al bordello, al quartiere Luci Rosse, dove riceviamo comunque delle informazioni, riusciamo a trovare Promezia. E appunto Nibel parla con lei, mentre tutti gli altri tre si divertono in maniere varie e svariate. E basta, questo è il mio riassunto. Non mi sembra di ricordare molto altro. No, mi sembra corretto. Tra un secondo finirà la musica e potremo iniziare. Perfetto. Perché ho intenzione di fare una roba da bastardo. Perché sì, perché sì. Mutato, ogni giorno mi stresso. Anche io ce l'avevo mutato. Ti scoccia accendere la cam, visto che poi devi andare a cagare, o ce la fai? Ah sì, arrivo, scusate. Mi ha detto tra l'altro... che Skilizetto è andato verso est. Vero. Io ho scritto Anias okay. Mia ed Esbosan, però non mi ricordo quale delle due. Non lo sapevate quale delle due. Cioè, Promezia ha detto un posto e altri hanno detto un altro. Detto in un'isola, tipo. Esbosan sì, è un'isola. L'isola. L'isola io... dove non dovevamo andare. Io comincio... Anias Mia o Esbosan? L'isola è Esbosan. Anias Mia è Istanbul. Quindi è una... città portuale su una penisola. Parto con questa canzone perché i più attenti di voi sapranno a chi è assegnata. Avete passato alcune ore nel bordello, qualcuno al piano di sopra, qualcuno al piano di sotto a bere. E vi descrivo la situazione al piano di sotto. Al bancone c'è a servire la matrona, la signora Tarchiotta, con la voce un po' gracchiante. E... davanti a lei ci sono seduti con una sedia di spazio fra di loro Nibel e Promezia, che ormai, se vuoi, state parlando del più del meno di cazzi vostri, della città, di robe, altrimenti siete in silenzio a bere. Seduta sui divanetti c'è Mif, giusto? Perfetto. Non c'è nessun altro e da quando siete arrivati qua non è arrivato nessun altro. Per cui sussultate quando la porta si spalanca ed entra una persona preannunciata da questa musica. Parto dal basso. i suoi pantaloni neri sono completamente sporchi di fango, come se avesse quasi nuotato nel fango. Sopra ha una canottiera, quindi un abito dell'impero. Nella parte sud del mondo non si indossano, le canotte non esistono. È un indumento straniero. E non è il clima adatto per indossarla, tra l'altro. Questo vestito è completamente sporco, fradicio di sangue, ed ha delle macchie di fango sparse. Vi colpisce la sua muscolatura estremamente definita, che va contro il fatto che questa persona sia una ragazza alta 1,60 m, con un seno accennato, non eccessivo. Una seconda non pienissima, va bene questa volta? Sì, ok. Una seconda. Bene. Va sempre bene. Perfetto. Sopra, credo che per uno di voi sia la prima volta che la vede in volto, perché l'hai sempre vista con la maschera, che ora non c'è, e il prestavolto è Maddie di Arcane. Da qualche parte dovremmo avere le immagini nel... Vuoi che te lo mando? Perché avevamo proprio quella che usavamo come reference sua. Sì, è su cosa? Sì, sì, quello di Gin. Se ce l'hai, mandalo. Lo mando dove vuoi che lo mando? Ma mettilo in chat qua, tanto è temporaneo, va, è tanto bene per avercelo. E non so quanto ci vedete bene, perché comunque è pomeriggio, ma è brutto tempo fuori, sta ripreso a piovere, anche se non in maniera fluviale. Esatto, grazie. Cioè, i pantaloni sono quelli, sopra non ha la giacca, ha una canottiera e basta. Si vede inoltre che aveva una ferita, si era fatta una ferita quando combattevate Diru, e quella ferita è aperta, cioè c'è un punto strappato dalla canottiera e sotto si vede la ferita parzialmente incrostata. Oserei dire infetta. Quelli di voi che ci vedono bene notano che ha una cosa strana, più di tutto quello che avevo descritto finora, ed è che da un occhio ha la pupilla completamente piena, cioè che è oscura quasi l'iride, e dall'altro è un punto di spillo. Gli occhi sono iniettati di sangue, è spettinatissima, trema, ha proprio degli spasmi muscolari, è entrata sbattendo la porta con molta forza, dicendo soltanto "dov'è?". Ma taglio qua la scena, e questa è la cosa da bastardi, perché andiamo al piano di sopra. Volete scegliere voi chi parte o facciamo con un dado? Dado gambling! Oh, cazzo, roll 20! Ok. Prego. Io non ho dadi a disposizione. Molto strana questa cosa in casa mia. Devono essermi caduti tutti per terra e ho smesso di raccoglierli. Questo sicuramente non è un sintomo di depressione. Dicevo, no, non lo è, ti giuro che non lo è, te lo giuro sulla tomba di un paio di persone a me tanto care, non farò i nomi, e... Anche sulle future tombe? Sulle future tombe, ovviamente, però ho sempre dei dadi di riserva. Dispari o pari, Sirius? Io pari. E quindi il caro Ika sceglie dispari. 20 sul dado, partiamo malissimo. Parte Sirio, quindi. Cristo. Hai avuto una serata di self-care. Ti piace questa definizione? Un pomeriggio di self-care. Beh, ogni tanto ci vuole. Esatto. Ti ha aiutato effettivamente a scaricare lo stress, l'ansia delle ultime settimane, se non dell'ultimo mese intero. Siamo ancora al 18 ottobre, 17-18 ottobre, dopo ci guardiamo. Quindi è passato tanto tempo da quando sono iniziati i tuoi casini, ma non così tanto. No. Escludendo la parte in cui avete riavvolto il tempo. Quando finalmente sei rilassato, tranquillo, sei sdraiato nel letto e noti che sulla parete c'è uno specchio che prende quasi tutta la parete, molto grande. Chissà perché l'avranno messo lì. E per un istante ti metti a fissare la tua immagine riflessa e noti che oltre il vetro, oltre lo specchio, non c'è l'immagine della stanza, ma c'è una cosa che non riesci a capire se sia un parco, un giardino, un bosco, un cortile. c'è dell'erba per terra, è l'unica cosa di cui sei certo, e non ci sono alberi. E all'interno di questo giardino ci sono dei conigli, ci sono 12 coniglietti bianchi, una grossa lepre, quegli animali comunque, quei roditori selvatici un po' più grossi, un po' più lenchi, di colore grigio, e al centro dello specchio c'è un gigantesco coniglio nero. Cioè, gigantesco per essere un coniglio. Certo. Dimmi cosa vuoi fare. E giusto per capire meglio la scena, io quando guardo lo specchio è come se mi vedessi, ma il dietro è diverso? Non ti vedi riflesso. Al centro dello specchio, dove ti vedresti te, effettivamente c'è il grosso coniglio nero. Ok, allora a questo punto mi alzo e mi avvicino verso lo specchio. Forse ti aspettavi questa reazione, ma quando ti alzi e ti avvicini, il coniglio nero fa lo stesso. E se arrivi a toccare lo specchio, lui mette la zampa nello stesso punto che stai toccando, impedendoti di andare oltre. Cioè, vi state toccando... Sì. Adone ammira il proprio corpo, in un certo senso. Cioè, osserva il corpo da coniglio che rappresenta lui in questo momento. E poi guardando il resto la scena praticamente, si domanda chi siano quei 12 conigli e se è un'istruzione quella, si domanda se è un'istruzione di qualche tipo. Ti metto in pausa. Cioè, per te sì, finisce vai. Questa scena che stai qua, ok. Dall'altro lato, Lieta, aspetta, avevi detto il nome del tuo vecchio personaggio che è? Linnea. Cero. Linnea. Ha avuto un pomeriggio divertente insieme a una delle signorine che ha cambiato genere. Ti domanda se può ritornare alla sua forma normale, oltre a che avete concluso... C'è una macchina posizionata proprio nella stanza e usa quella. E nella manciata di secondi che ci impiega a fare questa cosa, avverti una voce da dietro di te che ti dice: hai fame? Yes, I do. Forse dovresti mangiare. L'ultima volta che mi è stata detta questa cosa, il bersaglio era chiaro. Adesso è tipo... Non mi viene detto nient'altro, immagino. Se in una stanza ci sono due persone. Mi avvicino alla tipa. La trasformazione, la transizione è quasi completa. Però tipo, au, cioè Lieta tipo, l'ho mai fatto è questo, nuda, cioè... La devo ammazzare. Io non ti ho detto niente. Guess let the murder begins. Prego. Va bene, aspetta. Le metto tipo una mano sulla spalla. Uh-huh. Nothing happens. Si gira a chiederti. Si gira senza dire niente, sì. Per guardarti, per capire cosa c'è. E... vabbè. No. Lasciamo stare. Fai un passo indietro. Giusto? Cioè... sì, sì, sì, me ne sto andando per, dalla stanza. Ok, dal lato opposto, nella stanza noti che c'è un orologio. Tu hai fatto caso che quando eri entrato c'è una roba, non è particolarmente interessante, con la lancetta dei secondi, che inizia a andare al contrario. E ti ritrovi nel letto con lei a fianco a te. E lei si alza, va verso la macchina e ti dice: ho un problema se ritorno normale? Esco di nuovo dalla stanza senza dire niente. Mm-hmm. Fuori dalla stanza, chiudi la porta dietro di te? Faccio per uscire, la solita indicazione che ho appena cercato di fare. Ok. Puoi rifarla tranquillamente. Ok. Cerco di uscire come prima. Sì, guardo, sì, se succede qualcosa, mi giro, guardo l'orologio, tipo. L'orologio è come prima, esattamente come prima. Sei davanti alla porta, devi solo aprirla e uscire, se è quello che vuoi. Apro ed esco. Fuori dalla porta, quando la chiudi alle tue spalle, noti che c'è qualcosa di uncanny nell'ambiente. E c'è una persona familiare, a petto nudo, che ti dice: da bravo gourmand non devi mai accettare un pasto così insignificante. Non mi sembrava ci fosse una divinità nella tipo. Avevo delle istruzioni molto chiare. La presenza sembra sfaldarsi, come se fosse una visione, e le uniche parole che ti dice, alle quali non puoi rispondere perché sparisce quando ho finito questa cazzata, sono: oggi hai già rinunciato a un pasto, non farlo due volte. Andiamo al piano di sotto. La giovane donna che è entrata, sbattendo la porta, ha detto: dov'è? La signora si nasconde, cioè Mif sulla sua poltrona sprofonda. Visto che non le rispondete, la matrona le dice: signorina, si calmi, non... E a quel punto Maria, perché abbiamo capito tutti che è Maria, le lancia due lame, le trafigge il braccio e la pianta sul muro. Nessuno ti ha detto un cazzo, Troia. Vi ho chiesto dov'è. Ma in quel momento mi alzo, visto che sono lì. Chi sta cercando? Oltre a voi due, e indica Mif, mi serve sapere dov'è quello che stava cercando Diru. Adesso quanto ne sei tu? Fai un bel roll di mentire. Hai più due. Sì. Hai più due perché hai preso due punti. Ne so quanto ne sei tu. So che è in questo edificio. Ho usato le mie caratteristiche. Dovrò guardare. Vabbè, tranquillo. Se tiro solo il dado. Sì, sì. È un 10. 10? Sì. Perché per mentire c'ho due, sì. L'hai persuasa. Forse tu non sai dov'è. Si gira verso Mif ed evoca una manciata di lame dietro di sé. Lei sa sempre tutto. Scusate. Al culo. Mif dov'è? Nella stanza. Voi siete a destra, siete sul bancone, lei è a sinistra. La stanza è abbastanza grande, è una hall di un bordello, quindi ha okay, alcuni tavolini, sembra un bar. Se era vicino a me mi mettevo davanti, però non penso di arrivare. Che devi fare tanti passi. Lo so, esatto. Penso che tipo, cioè, se... io non penso si sia fermato al primo tiro di quello che stava fumando, uh-huh. Quindi è andata molto avanti, quindi molto rilassata. Osa tipo un spinello, che cazzo è il sigaro? Giù e fa. So tante cose, ma alcune non le so neanche io. Prego col tuo tiro di dialettica. Col tuo tiro di mentire. Io fucking... Va a finire che diventa credente di qualche dio, Mif, se le va bene. Ma io lo dico e lo prometto. 13. Ha fatto 10, esatto. Sì. La giovane donna, in maniera molto pacata, ribalta uno dei tavolini, che si schianta poco vicino, cioè molto vicino a Mif. Ti guarda, ti fissa. Poi si gira verso Nibel, verso le altre due donne, e dice, carezzando le ali, le lame che formano ali intorno a sé: credete che sia un gioco? Sono qui per assicurarmi che non succedano altri disastri del genere. Se non volete collaborare con le buone, lo farete con le cattive. E questo che fanno militari come te? Danno fastidio alle attività locali, lanciando lame in giro, ferendo la povera gente. Mi fa un altro tiro. E io sono tra i più tranquilli. Che pesante. Non lo so. Perché non ti siedi qui e bevi qualcosa con noi, invece? Ti dimentichi del tuo lavoro per oggi. Hai già fatto abbastanza, non pensi? Uccidere o fermare un dio, qualsiasi cosa abbiate fatto, è una grande impresa. Sono molto contenta che abbiate del tempo da perdere, ma non è il mio caso. Ho poco tempo per concludere questa cosa. Per cui, le tracce portavano qua. C'è un piano di sopra. E immagino abbiate delle cantine. La signora ha il braccio attaccato al muro e è molto silenziosa ora. Saresti anche tu con un braccio preso al muro. Mi avvicino al bancone e prendo la lama sul muro della signora, la stacco, la butto a terra. Nelle cantine solitamente tengono il vino migliore, no? Vi ho trovato una volta e vi troverò un'altra se serve. E storms off nella direzione delle scale che scendono. Andiamo con ordine. Lieto, al piano di sopra hai sentito del casino al piano di sotto. Più o meno è un secondo dopo la scena che ti ho fatto, quindi letteralmente... Scendo le scale, scendo sotto nella hall. Che cazzo succede? Al piano di sotto... Cosa? Puoi cambiare forma? Cambia forma. È già una donna. Sono ancora una donna, non sono... Ok. Io non ho ancora cambiato gene. Abbiamo poco tempo per andarcene da qua. Sai dove è Adone? E... no. Esatto, mi si alza, no? Con tutta la pace di... velocemente, ma con la pace dell'universo addosso. Cioè, proprio... momento zen. E va su a cercare Adone. E non so quante porte ci siano, cioè non ne ho la minima idea, bussa ad ognuna. Esatto. Ok, cioè, vorrei sapere cosa fa Nibel nel frattempo e ovviamente Linnea. Io sono lì con loro, Mi accerto che la signora stia bene. Sì, a parte il buco nel braccio, che guariranno a breve, probabilmente. Si fa una fasciatura di W. Anche l'altra ragazza Promezia le aiuta a farle una fasciatura. Chiedo a loro intanto il buco nel braccio. Chi è stato? Maria. Ah. Andiamo. Mi sembra il momento giusto per levare le tele. Adore. Esatto. Facciamo la scena di Adore. Forte. Siamo un pochino indietro rispetto a sta cosa qua, quindi qualche secondo. Sei nella stazione dove l'abbiamo lasciata, cioè hai toccato il vetro con la mano. Mm-hmm. Adone si è seduto a terra di fronte allo specchio, appunto, sta guardando ad accarezzare il fatto lo stesso muro, e guarda i conigli bianchi dicendo: non preoccupatevi, un giorno tutto questo dovrebbe finire e voi sarete al sicuro con me, se siete ciò che penso che siete. E poi ripensa a quello che, insomma, ha fatto prima, in un certo senso sospira e dice: spero tanto che Silas stia bene. Spero tanto che stia bene. E continua a fare dei discorsi di questo tipo. Si sente? Non so se si sente. Vabbè, e c'è un knock knock alla porta. Ok, Adone si alza, si gira, va alla porta, guarda, prima di aprire la porta riguarda se il riflesso è ritornato normale, vedi la tua, ti vedi normalmente e vedi la stanza riflessa normalmente. Ok, Adone prima di aprire la porta, anche perché è ancora nudo, dice: chi è? È la porta giusta? Sì. Ok, perfetto. Non è la prima che trovi. Ottimo, perfetto. Adone, è arrivata Maria, sbrigati, dobbiamo andarci. Bene, ci leviamo dai coglioni. Adone, come un vero coniglio qual è, corre a vestirsi, prendere tutti i vestiti, e in un attimo vedi lui che apre la porta e dice: andiamo. E fa per... Lei la vedi tipo super mogia, cioè di solito è Miff e con i nervi a fior di pelle, no? Vedi che ha il suo bel... sigaro che ormai starà finendo, no? Tipo... Era ora, andiamo. Stai bene? Benissimo, un fiore. Andiamo. Corre! Lui va veloce, se vede che sei lenta ti prende per mano. No, è spedita, ma è tranquilla. Cioè, okay, immaginati allora... questa situazione estremamente contrastante dove tutto attorno sta andando a puttane, però tipo lei è completamente ferma, esatto. Ok, no, allora Adone scende velocemente le scale. Siete tutti e sei, perché siete voi quattro più le due donne al piano di sotto. Ok, Adone va verso la porta e fa segno: andiamocene. Teliamo, cioè, quando volete. Sono anche il primo a uscire dalla porta, nel caso. Se non ci sono posizioni, il party esce dall'edificio. Prima di uscire, vai. Mi rivolgo alla signora. Per quel che possa valere, mi dispiace. Lo so che è chiedere troppo, però... lei non sa dove siamo andati. Falla pagare ad Adelfo. Sarà fatto. Uscite fuori dall'edificio e fuori ha ricominciato a piovere. Basta, pioggia! Pioggia leggera. Non ce la faccio più. In lontananza sentite proprio i fulmini verso le montagne. E rispetto a dove siete vedete il mare. E verso il mare invece è bel tempo, cioè in quella direzione le nuvole sono chiare. E su cosa siete più o meno nel punto giusto? Proprio una casella più a sinistra. Ecco, siete lì. Ditemi dove volete andare. Dobbiamo andare al porto? No? Dice... Non possiamo dal vescovo? O dite che è troppo tardi? Prima ci allontaniamo da qua, meglio è. Cioè, conviene che perdiamo le tracce in mare. Cavolo, mi sarebbe piaciuto ringraziarlo. E mandargli il coniglio. E ci sto pensando, però devo scrivere una lettera. E Adore ci mette tanto a scrivere le lettere. Grazie, signora. Ho una domanda. Adore non ha fatto il cambio di sesso. No, ancora. Neanche Linnea. Siete due donne. Vabbè, Adone dice, d'accordo, allora sbrighiamoci. Andiamo, presto. E Nibel aveva preso la location giusta della sua target, corretto? La location giusta... Non lo sapremo mai. Cioè, lo sapremo il giorno che lo trovi. Me ha detto di Agnasmea e di Esbosan, però c'erano varie testimonianze che portano a pensare che sia ad Esbosan, all'isola, che sia scappato lì. Non mi ricordo in realtà perché mi è stato detto di Agnasmea, perché alcune persone credevano che fosse andato ad Agnasmea, o forse ad Agnasmea ha preso la nave per andare ad Esbosan. Lui aveva detto che sarebbe stato ad Agnasmea. Esatto. E però giustamente la gente dice, vabbè, sì, ti dice una cazzata, perché chi è che dice dove va effettivamente? E quindi pensano che sia ad Esbosan. Sì. Ok. E niente, ci serve una barca, quindi? Ed fu subito Wilesy. Scusate. Partiamo dal porto qui, andiamo a Agnasmea. Sì. Non siamo troppo distanti, quindi possiamo muoverci in fretta. Però dobbiamo stare attenti a nascondere le nostre tracce, sembra che ci abbia seguito in qualche modo. Probabilmente magico. Cioè, io... Non credo avrà qualche spell. Coprire le nostre tracce. A meno che non... Forse se prendessimo un teletrasporto, ma qua non c'è nessuno che faccia teletrasporti, credo. Allora, vi lo dico a Nibel e quindi sarebbe lui a dirvelo. Tomeli, che è il quartiere a fianco a dove siete voi, ha un unico un'unica banchina. Quindi in genere ci sono massimo 4-5 barche attaccate e non cose grosse. Il porto è Pirenia. Tra i due fiumi, intendi? Sì, esattamente, questo qua. E il porto vero è quell'altro, è Pirenia, che ha le banchine tutto intorno. E c'è anche il cantiere navale, quindi c'è proprio una zona, diciamo, dove effettivamente vengono costruite, quindi è un grande porto. E lì attraccano anche... Queste due linee qua sono mura? Sono le mura sono di... Strada. Sì, sono le mura. Anticamente... Aperta. Anticamente quelle mura servivano per collegare l'acropoli al porto. Ora sono per bellezza, cioè sono mezze diroccate. Ah, okay. Quindi noi per tornare dall'altra parte che cazzo di giro dobbiamo fare? E poi puoi passare di qua e poi entrare nelle mura da qui. Questa è una porta. No, ok, ma non possiamo fare così. La strada base... Sì, puoi fare così. Ah, ok, avevo capito che non potessi fare quel giro. Okay, sì, no, sono le vecchie mura, cioè sono 2000 anni. Sì. Vabbè, tolgo lo snap to grid, lo snap, ok. Sì, allora, andiamo qui al porto questo qua. È un porto piccolo, vediamo se troviamo qualche barca. La vedo dura, però tanto è di strada, tanto vale provare. E poi ci dirigiamo, passiamo eventualmente da... No, dovrebbe esserci l'entrata qua, quindi possiamo passare da qua e andare al Porto Grande. Direi di andare al Porto Grande, visto che non dobbiamo anch'io farci scamare particolarmente. Quindi più grande il porto, meglio ci confondiamo. Prima andiamo meglio. Ma se rischiamo di perdere tempo al porto piccolo, al porto grande magari abbiamo più occasione di trovare qualcosa. Va bene. oh, pensata geniale, prendiamo la barca al porto piccolo e andiamo al porto grande. Vabbè. Geniale. Lo sappiamo in che modo segua le tracce, se sono tracce magiche la vedo dura a nasconderle. Non so come funziona quella roba, ma avendo questi funghi addosso non so quanta, non lo so, polverina magica rilascia il mio corpo che può essere seguita da chiunque, non ho idea. Non rilascia la polvere magica su corpo. Riusciamo a capirlo. La droga. E no, Adone no. Dice in ogni caso ci hanno trovato, se ci ha trovato Maria è per colpa mia in un certo senso. Immagino che prima avesse puntato su di me. Stiamo facendo walk and talk, suppongo. Sì, sì, sì, ovvio. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi modo abbia per rintracciare le persone è qualcosa che si può applicare a me come applicare a chiunque altro. Bianis, posso fare un tiro per provare a capire che spell potrebbe essere? Mi fate tutti un roll di percezione e vuoi fare anche un roll di arcano? Allora, prima fatemi tutti un roll di percezione. Ok. Prima di rollare dico gli altri. Maria sapeva la nostra posizione, ma comunque non sapeva dove si trovava Lieto. Quindi probabilmente il suo metodo per rintracciare le persone non è così tanto preciso. Infatti. Quindi direi stiamo attenti dove mettiamo i piedi. Mm-hmm. Cerchiamo di essere più discreti possibile. E comunque via mare sarà molto difficile seguirci, nel senso non è così facile viaggiare via mare, cioè via mare seguendo le tracce di qualcuno. Se tutti sono d'accordo direi passiamo tipo per le viuzze, cercando sì. Di togliere le proprie impronte a terra. Non lasciare segni. Mentre dici questa cosa, fammi il roll di percezione che forse ti devo interrompere. Certo, faccio. Cioè, se fai un roll alto. Sì. Quanto hai di percezione più 0? Percezione dove stava? Mente. Hai più 1. 8. Più 1. Chi di voi ha fatto più di 10? Io ho fatto 9 più 3, 12. Quanto cazzo hai fatto, Ika? 8. Ah, ok, no, allora... Quindi solo Adone ha fatto più di 10? No, anche io. Quanto hai fatto? Aspetta, sono mutata. Ho fatto 5, 11. 11, ok, 5. scusami, non avevo sentito. Voi due state guardando Nibel e dietro di lui vedete che c'è qualcosa che sta scendendo al cielo in corrispondenza del punto dove c'era il bordello. Ha un esame più attento, è una figura umanoide che ha delle ali di qualche genere, però è buio, cioè sta piovendo. E faccio segno a Nibel di girarsi e punto la creatura, che cazzo è? Cioè, io Sirio posso capire cos'è anche Adore, però che cazzo è? Poi la guardo tipo... Forse ci trova con quella. Prendo Adone e Mif di peso e tipo li sbatto in una vietta lì vicino e confido nel fatto che Linnea ci segue. Ok, li seguite? Io mi faccio trasportare, non credo di aver modo di contrastare questa cosa. Mif è in pace con se stessa, qualsiasi cosa le arriva addosso lei dice ok. Non vedo bene, da questa distanza. Chi ha una buona vista rimanga qua al bordo della viuzza e controlli cosa sta succedendo. Vi siete nascosti? Tipo sneak peek. Ci siamo nascosti. Ma quella drogata possiamo guardare. Esatto. La prima volta che si droga, oltretutto. Siete fortunati. Yeah. Siete messi in un punto dove voi vedete questa cosa e questa cosa fatica a vedervi, più un po' per l'ombra che proietta su di voi il vicolo e un po' per gli impedimenti. e vedete che è una persona che si sta guardando intorno in tutte le direzioni. Ok. Sembra cercare qualcuno. Chissà chi. Chissà chi. Probabilmente sta cercando noi. Voglio tornare a casa. Gli spariamo? Se no. Non mi pare. Linnea, perché è sempre così belligerante? Andiamo a prendere questa barca, andiamo a morire in mare, per favore. Io ho un counter, cioè la vocina nella testa di Linnea. Tu puoi sparargli, e se va male... No? Non mi sembra una buona idea, a sto punto aspettiamo che se ne vada via, magari non ci ha visto. Non so se hai capito cosa intendevo io. No, no, si sta guardando intorno. Almeno sappiamo che funziona solo a vista. A quanto pare. Non sembra averci un'altra isola. Possiamo provare a rimanere in questo punto e a vedere se quando esce viene verso di noi o va in un'altra direzione. Se viene verso di noi, tendiamo. Adone prova a guardarsi. Scusa, vai, vai. No, no, no, se vuoi dire una cosa, falla. No, Adone dice a... No, no, no, niente, perché dice facciamo una via in cui non veniamo visti, ma è difficile non farsi vedere da una cosa del genere. Quindi, vai, vai. Adone non dice niente. Rimanete fermi e in silenzio. E... dopo un po' state guardando questa figura, cioè l'avete capito ormai che è Maria. A un certo punto, dopo che chiaramente non vi sta vedendo, alza la mano sulla testa, fa una cosa del genere, e riscende. Ok. È scesa. Mi dice Mif, no, che stava continuando a guardare. Probabilmente ha contattato. Cos'è che ha detto Nibel? Guardando in che direzione? Stavo guardando verso il centro della città. Quindi non nella nostra direzione? No. Ok. Probabilmente ha contattato i due che c'erano prima con Diru. I due chi? Ah, giusto, tu non lo sai. Il venerabile? Ah, sì, e l'altra tizia che ho addormentato. Probabilmente sta parlando con loro. Quel vecchio in realtà glielo avevi detto, perché poi gli avevi detto sì, anche il vecchio... Sì, per questo sì, Adone ha detto il venerabile, perché ha detto... Sì, sì, Mif non ha qualche rotella a posto in questo momento, cioè, no, no, infatti Adone dice ok, ci conviene sbrigarci adesso che sembra non sto usando questo potere, perlomeno. Sì, sono d'accordo per una volta. Andiamo. Mif gira e va verso il porto, non sa dove sia il porto, si gira e va da qualche parte, per finché favore. Non la correggete. Adore dice, le spalle, per favore, no. Prendi per mano, prendi per mano Mif e guidala te. Wow. Lo fa Nibel? Ma sì. Ok, vedi che Mif tipo si ferma. Ti prendo per il polso, non per la mano. Ah, ok. Perché mi stai toccando? Non ti vedo molto in te. Ho capito, ma chi mi può toccare? Soltanto la mia amata Mimi. Non te. Togli, per favore, la mano. Dietro la sto cazzo, tipo... Ma ti do fastidio. Ma ti do fastidio. Lieto, Ing. Poi lascio andare il braccio. Grazie. Quando dici amata Mimi, vedi che adoro un momento, vai. E si ritira, non dice niente. Mif, vedi che fa due dita così, ti guarda, tanto più o meno la stessa altezza ci siamo, e cerca di ficcarti due dita negli occhi. Non cioè, credo. Proprio, ma così Adone no. Ti prende la mano e ti la passa proprio senza nessun... Dai, su, andiamo, non c'è troppo tempo da te. No, non rompere tutte le palle. Se vai avanti ti tocco, è un problema tuo a sto punto. Dagli un braccio. Datemi un picco. Ti preghiamo comunque. Sì, sì, sì, sì, intanto. Sono contento che la state prendendo per ridere. È la prima volta che arrivate al quartiere di Tomeli. Che era anche interessata a visitare, ma non avevo avuto occasione. Per cui per voi è semplicemente il posto dove siete passate attraversando due ponti per 10 minuti. E il tempo è stupido, cioè un po' piove, un po' smette. In direzione del mare è bel tempo, quindi vedete l'arcobaleno in fondo all'orizzonte verso sud. E mentre alle vostre spalle, cioè alla vostra destra, se state andando dritti, cioè sta arrivando una tempesta. Non c'è molta gente in giro, dovrebbero esserci dei mercati aperti, che sono quasi tutti chiusi. E quindi niente, potete attraversare questa zona senza problemi, arrivando al secondo ponte. I ponti sono ponti europei, cioè sud Europa, quindi larghi, resistenti, grossi, e muratura, grosse colonne che li sorreggono. E attraversate anche il secondo ponte, mi pare di capire. Perfetto. Sì. E arrivate al quartiere delle mura, che si chiama Le Mura, o Teiche in lingua di coso, però letteralmente vuol dire Le Mura. Anche questo è un quartiere tranquillo, cioè c'erano dei luoghi da visitare, dei mercati, però non avete chiaramente il tempo per farlo. Non ci sono i vicoli, cioè le case sono costruite vicino al mare e c'è uno, come si dice, un grande lembo di terra libero con cortili prevalentemente. Giardini mi sembra una parola grossa, c'è qualche albero. In fondo a questo quartiere c'è un faro, che è l'unica cosa alta, l'unica cosa che si vede da lontano. Da questo momento in poi state camminando per forza all'aperto, cioè senza copertura da parte degli edifici. Vi chiedo cosa volete fare. È comunque più di 1 chilometro, forse 2, da qui all'uscita sul mare. Mentre invece per arrivare alla porta delle mura sono 500 metri. Ma avete scelto di fare l'altra strada. Dove siamo adesso? Aspetta. Siete arrivati qua. Cioè siete appena arrivati. Ok. La mia proposta è: arriviamo fino a qua e rimaniamo stretti fino alle mura, perché non arriviamo giù. Sì, anche secondo me. Quando sono altre mura? Esatto. Qualcosa all'interno delle mura, siamo inculati dentro le mura però. No, lui c'è esterno. Mare, siamo molto. Secondo me siamo inculati a prescindere se ci beccano, quindi tanto vale. Infatti, e ricordiamoci che Adone adesso dovrebbe fare il dio della tempesta, quindi insomma, dai, al massimo sniper a qualcuno. E lo prendi per il culo. No, no, ma lo dice. Ah, no, lo devo fare più in character. Peccato. Vai, tocca. Ma diciamo che. Ma io sto dicendo a te, Sara. Diciamo che Maria è andata verso il centro, quindi magari tipo potrebbe percorrere le mura da questo punto qua, non lo so, vederci, io solo so che cazzo di modo c'ha, quindi magari possiamo anche non entrare per le mura e passare da qua, visto che ci sono le case, e poi eventualmente rientrare dalle mura qua e poi passare per andare qui, invece di stare qua dentro che non c'è nessuna copertura. La strada più veloce quale sarebbe? Quella che abbiamo segnato subito. È tipo correre qua. Possiamo anche tipo passare da qua, vi ho visto che è denso, però c'è sempre un tratto. Ma io scusate, non abbiamo trovato dei panni stesi fuori? Qualcosa? Vuoi rubare dei panni? Sì. Stendi panni. Come vuoi, cioè è una città, c'è pieno. Infatti c'è. Cioè, a questo punto, se passiamo da qualche parte, Miff con molta nonchalance prende, si fa tipo un turbante. Cioè, nel senso, si copre, banalmente, si incappuccia. Parlo in maniera tranquilla, te lo conto come tiro di prestidigitazione, perché è rubare. Qui Quindi scegliete voi chi vuole raccogliere i panni per tutti. Io ho più zero. Io ho... Io ho due. Ok. Dito, tu quanto hai? Verde. Più zero. Adone? Zero. Ha? No, no, Adone zero. Anibel. Vede, la giustamente, visto che sta trascinando Mif, vede che Mif fa cose, dice no, lo faccio io, voilà. Prego. Allora, ho aggiustato le robe sulla scheda, quindi ho fatto due. Un morda. Non è andato aggiornata. Quando vai per tirare via dei panni dal filo, viene via il filo, rimane proprio attaccato, cioè stacchi il filo per sbaglio, fai troppo forte. E staccando il filo fai rumore e dall'interno della casa. Sirio, ci sei? No, non ci sono. Ok, perché vedo che la tua webcam ha dato degli errori bizzarri. Sì, ok, ora è fissato che... ora è fissato, l'ho premuto due volte e ha funzionato. Dalla casa emerge una signora 50-60enne che ti urla al ladro. No, signora, non capisce. Si è staccato, stavamo cercando di sistemarlo. Mif parla. È salvo, guarda... forte di questi giorni. Io raccolgo i panni per terra, li metto tutti vicini e glieli porto verso di lei. Temo ci sia stato un fraintendimento, signore. Ah, sì, in effetti sta arrivando una tempesta. Vabbè, grazie. Toccherà chiamare il fabbro. Buona giornata. Gli attacchi meglio la prossima volta. Quel nodo non era molto resistente. Mi tocca rifare il bucato. Qua si sono sporcati tutti. Meglio che perderli, vero? Purtroppo. Tanto che c'è, no, adesso abbiamo anche un altro testimone. Oh. Per favore, facciamo la strada più. Mi giro verso gli altri e gli faccio tipo. Faccio attenzione, signora, ci sono un sacco di brutti ceffi ulteriori. Vabbè. In giro. Signora, noi la volevamo ammazzare per farle i panni. Sai quella storia che legge al telegiornale? Quando due zingari hanno rubato 20 euro a una signora, l'hanno uccisa. Dici, ma che cazzo di senso ha avuto? Vabbè. Era una campagna di D&D, chiaramente. No. La cosa che ha letto le carte ad Adone, l'ha sparato. Guarda, se avessi un euro per ogni volta che è successo, avrei 2 euro. Che tu sappia. Scusa lo spoiler. Prego, continuate pure, intanto che cerco la musica. Minchia, come la truffa Rovigo che si vestono in veste da caramba. Da ufficiale, esatto, da caramba, sarebbe da dire. Signora, non si fidi delle guardie, c'è qualcuno che le sta impersonando. Mi dice che ha impersonato la madre morta per prendere la pensione. Vabbè. Stavo deragliando al momento più serio della campagna, va bene così? Non è vero, non è il momento più serio, però. Ah, ok, grazie. Perché No, scherzo. Vabbè. Devo, come Dick Bailey. Vediamo Sara che sta rullando Mif in questo momento. Esatto. Andiamo per la strada più veloce, ragazzi. Adone prende l'iniziativa, sei tutti d'accordo? No, sì, sì. Va bene. Madonna, ti sparo. Appunto per quello. Dai, povero Piani, ragazzi, una scelta: andare per la strada più veloce. Sì, andiamo per la strada più veloce. Bene. Sono d'accordo. E ora mi rollate tutti stealth. Vabbè, porco Dio. In che categoria è? Nascondersi, sempre verde. Porca troia, ok. Tirane un altro, Ica. Sì, l'ho già fatto. Ah, ok, quindi hai un 11 più. Quanto hai di stealth base? 13 totale. Ok, perfetto. Sì, meno 1, 12. Hai rollato anche te, Sirio? Hai fatto il 10, 8? No, ho fatto 8 e rimane 8 perché ho più 0. Ok, e il più basso è Mif? Sì. 5 più 0? 0. Ci sono tre guardie non di qua, riconoscete che non sono di qua perché hanno la maschera. Ma guardi qua, non hanno la maschera. E stanno controllando l'area, un po' tutti. Un po' tutte le persone, non c'è tantissima gente in giro, anche se siete nella zona aperta. E sentite che fra di loro dicono... razza mista con vestiti cachi, capelli ricci, biondi e lunghi. Sembra una delle persone che stiamo cercando. Lo sentiamo tutti? Sì. Cioè, visto che piano piano tipo spalanca gli occhi, no? E guardiamoci. E tipo, cioè, si avvicina un pochino di più a voi, fa... Mm-hmm. Si gira dall'altra parte nel mentre... Mm-hmm. Ignoriamoli. Si mette dietro Nibel, che è un armadio, e cerca di nascondersi completamente. C'è che non passi inosservato. Che facciamo? Stanno venendo verso di noi? Mi stanno guardando. Fate finta di nulla e continuiamo avanti. Se ci seguono, se possibile, fischietta qualcosa di... Quanti sono? Impero. 3. E sono tipo strada di fronte a noi? No, sono all'entrata delle mura. Quindi loro hanno, cioè, vedono chiaramente lo spiazzo. E voi state passando, ce l'avete alla vostra destra. Ok. Ci sono altre persone attorno. Sì, ma non tantissime. Quindi ci stanno bloccando l'entrata delle mura, praticamente. Sì. Cioè, sono lì davanti. Stanno... proprio per di lì, cazzo. No, lui, no, voi volete passare. L'entrata sotto, giusto? Questa qua? No, loro stanno bloccando questa entrata qua. Siete ancora qui in alto. Cioè, sono infatti, tipo qua. Okay. Non serve, avete dato 5 metri da dove è il token. Sì, noi facciamo tipo... Ok, accelerate il passo o... Adone rimane lo stesso passo. Sì, più che altro cioè nel momento in cui magari si incrociano le masse, Mif cerca di tirarsi sui capelli e mettersi la bandana che di solito ha sempre, tipo sui capelli, ok. Uno di loro solo si separa dal... Dovevi cambiare genere. Si separa dal gruppo e dice... Scusate, una parola, un secondo. Io mi muovo davanti a loro e possibilmente mi metto di fronte a Mif. Ha bisogno? Stiamo cercando tre persone. E uno di voi ti guarda, capelli rossi, roba strana sulla faccia, molto alto, molto grosso. Due di voi somigliano alla descrizione che abbiamo. Posso chiedervi i vostri nomi? Mi abbasso un po', guardo negli occhi. Beh, capelli rossi è abbastanza normale ad Apeira, non trova? E poi con questa centrale, sa quanta gente è stata male? No, non sono familiare. Sto solo facendo il mio lavoro, posso sapere il suo nome? Chi lo chiede? Si mette, fa il saluto dell'impero. Faustus Smissum, legionario dell'impero. Siamo ancora all'aperto. Cioè, ci hai raggiunto che siamo tipo in mezzo al cazzo. Adone fa un passo. Le dispiace se arriviamo tipo all'edificio più vicino, così non ci bagniamo. Si guarda intorno, certamente. Avete effettivamente un edificio con dei portici davanti, a pochi metri. Entrate sotto il portico, gli altri due che lo accompagnano stanno a distanza. Quanto siamo coperti dal portico rispetto ai due compagni? Voi abbastanza. Ma prego, perché non faccio venire anche i suoi compagni? Non mi sembra il caso di lasciarli da soli. Stanno controllando in giro che non ci siano altre persone che stanno nella nostra descrizione. Come mai? Cos'è che hanno fatto di male? Contravvenuto ad alcuni regolamenti sulla sicurezza globale. Info Hazard. Papà, ma dai, noi non potremmo mai fare una cosa del genere. Tipo, Miff mette una mano sul braccio a Nivel. Più che altro, in ogni caso, che informazioni le dobbiamo dire? Così ci sbrighiamo velocemente. Insomma, lei può tornare a fare il suo lavoro. Solo i vostri nomi e da dove venite? Adone prende la palla al balzo e... Io... Allora Adone si presenta e dice... Promezia Merkar di Falchina. L'uomo tira fuori un taccuino e inizia a segnare. Noti che è mancino. Voi? Io sono Linnea. Con una o due N? Con due N, c'è l'umlaut sulla E. E ho fatto su e giù un po' per tutta la costa dell'impero. Ci sono qua in vacanza. Cognome? Non l'ho detto. Posso saperlo? La serie non l'ho. I respe. Non lo dico, sarebbe da stronzi dirlo, quindi non lo dico. Lo segna. No, voglio sapere. No. Guarda padre e figlia e chiede, voi? Adelphus Clisetto. Grazie. La figlia? Era Clisetto. Ok. Grazie per la collaborazione. Buona giornata. Sì, buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro. Vedete che avvicina la mano alla testa. E sorridendo, guardando la vostra direzione, dice in un dialetto del nord che Adone capisce, ma voi no. If capisce? Nah, solo Adone. Dice una frase che per voi suona come sti cazzo di tedeschi che parlano la loro lingua e sembrano cani rabbiosi. Questa è citazione di Barbero. Te lo scrivo. E vi sta sorridendo allegramente. E te lo scrivo io guardo... su. Sì, sì. Io guardo Adone e Miff. Sibirai Havenen Gestoten. Potrei dirtelo io in tedesco. Sì, vai. Volendo. Conta che è sempre broken, perché comunque non è proprio il tedesco. Sarebbe qualcosa come... tipo Shibira ich habe dem gefunden, tipo una cosa dai del... c'ero vicino cazzo anche no, Adone, due lettere. Adone sta dando le spalle al tipo, vi dice che a questo punto vi dice ci hanno trovati, dobbiamo correre. Io mi giro di scatto, lo prendo con la mano in faccia e lo sbatto a terra. Lo fai mentre lui riesce solo a dire svai out tra punk. Rolla un di 10 per... Come la nutria. Sì. Lo tiro. Di 10 vai più per 10. I danni che per... Ok. Dov'è? I can't. Vai, entra che è una meraviglia. Lo metti fuori combattimento, lo stordisci. Non si aspettava la cosa, quindi sbatte proprio la testa, ha una commozione cerebrale ed è svenuto. Non è né morto, non ha subito neanche dei danni gravissimi. Gli altri due si allarmano. Io gli tolgo la maschera. Vedo dentro c'è qualcosa, tipo un dispositivo, qualche roba no. Del genere. È una maschera, okay, normalissima. Quindi, all'orecchio non ha niente, suppongo, no, che sia soltanto un incantesimo. Sembrerebbe di sì. Ok, giusto per rompere i coglioni, prendo la maschera, la piego e la butto a terra, solo per dargli fastidio. Hai intimidito con successo gli altri due, se fai un roll buono, vai. Ok. Questo è sollevare. No, vabbè, intimidire, vaffanculo, che sollevare, sono pazzo. Sono schizofrenico. Sei. Ok, non è niente, mi di tipi di tanto. Fai vedere un attimo. Puoi fare il reroll. Sì, bravo, sarebbe due volte per incontro. Sì, sì, sì, va benissimo. Ok. Cioè, prossimo combat ce n'hai uno in meno. Ok, sì. 8, un po' meglio. Va meglio. Qualcuno di voi vuole fare qualcosa per migliorare questo tiro? Ho una domanda. Dimmi. Posso usare la mia stregoneria per far cadere un fulmine vicino a noi e provare a intimidirli in questo modo? Costa un mana penny. Posso usare obolo la vanità? Sì, puoi. Costa un mana penny. Sì, sì, spendo un mana penny. No, ma Pjanic, io ce ne ho zero adesso. Beh, ho segnato due, ma... Sì, sì, sei a zero. Ok. Allora, uso un mana penny, uso obolo la vanità. Vai. Vedo se riesco a rerollare, così mi vedo pure l'exp. Vabbè, uno in più, però... Poi di niente. Al decimo roll fai 10, però, di sto passo. Sì, ti do un punto... cioè, te lo segno io, un punto teurgia. Sì, dai. Sì, sì, poi tu. Ogni quanto sale di livello? A parte che non cambia un cazzo, 10. Perché ho soltanto la buona vanità. Sì, sì, lo puoi usare 3 volte al giorno. Sì, non cambia un cazzo quando sale di livello. Sì, non serve letteralmente a nulla. Ok, dai, facendo tutto nell'insieme riesci a intimidirli. Abbastanza da fargli perdere un'azione, o meglio. Prendono le armi e non fanno nient'altro. Tocca a voi. Speriamo. Quello che volete fare qualcosa. Ce ne andiamo. Vorrebbe utilizzare Every Talk per parlare nella mente a quelle due persone. E con una voce non sua, non so se lo può fare, ma tipo... imitando una voce ben più profonda e minacciosa, dirgli lasciateci in pace, con una voce che rimbomba nella loro testa. Sempre per intimidire? Così. Cioè l'idea è quella? Certo. Non credo che Avril Talk te lo faccia fare, aspetta un attimo. No, Every Talk può essere usata per confondere, ma non per quello che dici te. Confondere è un'altra cosa. Cioè, gli fai sentire tante voci. Posso comunque farlo? Sì, confondere serve tipo per rendergli avversi gli incantesimi, se non mi ricordo male. Vabbè, magari... cioè, se comunque mandare l'avviso telepaticamente a un incantesimo, magari gli blocca la possibilità di scitolcarci di nascosto. Secondo solo. Ok, confuso riduce la precisione, le sue skill e i suoi attacchi sono lanciati in direzioni casuali e le sue abilità sono lanciate in direzioni casuali, quindi comunicare non è compromesso, ma tutto il resto sì. Come vuoi. Lo faccio comunque. Ok, spendi il mana di confondere. E... ah, sei al eri full mana, immagino. Yes. Quindi vai a 2 di mana. E guadagno un punto esperienza in Every Talk naturale. E lei castata così, quindi è plus 1. È 4. Dura 4 minuti questa cosa. comunque sia importante. Devo rollare per resistere ai 5 più 6, 11 più 4, 15. Ne rollo 2 perché sono uno a testa. Sì, sì. Falliscono entrambi e hai confuso entrambi, che si stanno guardando in tutte le direzioni. Perfetto. E allora a questo punto dico agli altri, andiamocene, e Adore inizia a correre. Piotto pure io. Via via. Pure sì, Lieto sì, e pure sì, Mif. Via. Perfetto. Sì, sì, sì. Ok. Ah, per aggiungere una roba, litogenesi sotto di loro. Hai del mana da sprecare? No. Come vuoi, come vuoi. Mi pare di non avere il mana da sprecare. Però. Se sei qualcosa che io non so, sei libero. Hai un totale di 21 punti tra vita, tra fatica e mana. A posto. Dimmi te. Lancia pure litogenesi proprio. Lo usi per fargli danno o solo per... Per creare la zona di magma sotto di loro. Quindi per danneggiarli. Intorno a loro, dai, magari. Ok, lì... Sì, sì, sì, ok. Non cerchi attivamente di ucciderli. Ok, non ti faccio tirare niente allora. Semplicemente li hai... inigluati. Secondo me è un verbo, sono sicuro che sia una parola vera. Chiaramente. Chiaramente. Inigluiti, forse. Vabbè, quanto sono distanti? Sono abbastanza distanti e sono confusi e arrocciati, quindi potete scappare. Quantitativamente? 5-6 metri. 5-6 metri dal momento in cui partite ad andarvene. Ok, io sprinto, li prendo da entrambi dalla testa e li sbatto tutti e due per terra. Wow. Però la 4 di 10, prendiamo il più alto. Wow. Cane, li abbiamo uccisi. Veramente. Vabbè. 9. Minchia. Capolavoro. Riesci effettivamente... Prendo le maschere di entrambi, le piego tutte. L'odio per le maschere, indescrivibile. No, almeno se devono rompere i coglioni lo fanno con la faccia di cuore. Ok. Anche loro sono storditi e non sono danneggiati in maniera grave. È tipo un film di Bud Spencer. Diciamo le cose come stanno. È Brancaloni. Sì, hai 2 punti esperienza a combattimento senza armi Nibel e 1 punto esperienza a magia ontica Lieto. Segnateveli no, pure. Naturale, però sì. Magia naturale, scusami. Pardon. Potete proseguire, sì. Immagino corriate comunque. Ok. Sì, sì. Riuscite a raggiungere questo lembo di terra che separa le mura dal coso, dal mare. E c'è una sola guardia, non di loro, di quelle della città, svogliatissima, appoggiata al muro, che chiaramente il suo compito è quello di sorvegliare la zona, sentinella. Quando ci avviciniamo verso la guardia, cioè non quando siamo lì a un metro, ma un po' prima, io inizio a rallentare e faccio il segno. Esatto, ci si calma. Ci si calma. Ok. Ditemi cosa Comincio volete a guardarmi fare. Attorno nel caso vedessi gente che può fare da trasporto, magari qualcuno che conosco, non lo so. Tu la guardi a mezzo lo conosci, cioè è uno che lavora lì, cioè tipo la guardia giurata del porto, non è un soldato. A parte che tipo Nibel da piccolo pescava. Infatti, per quello ti dico, è una persona che comunque di vista conosci. Non ti ricordi come si chiama, lui probabilmente non sa come ti chiami tu, però... Oh no, è un altro testimone. Quello lo conosco. È una guardia, però. Vogliamo fidarci? Beh, magari... Cosa gli vuoi chiedere? Se conosce un metodo per prendere una barca da qualche parte, magari qualche mercante che ci può... dare uno strappo. Sì, a questo punto tanto ci siamo già rimasti. Ci siamo già fatti vedere. Almeno magari ci può dare un aiuto più veloce. Ok. Allora mi dirigo verso di lui. Non so il nome. Buon uomo. Buongiorno. Non so se si ricorda di me, sono Nibel. Oh, ciao Nibel. Sì, sì, sì, mi ricordo. Tutto bene? Ho passato momenti migliori, onestamente, però... si tira avanti. Lei sta? Si va avanti, i figli crescono. Sono alla scuola di magia ora. Non per Nibel. Sì. Mi dispiace non poterli vedere, però gli auguro che l'insegnamento vada bene. Mi spiace tagliare corto, però avremmo un po' fretta. Stiamo cercando una barca per salpare. Sai per caso dove possiamo trovarne una? Dove dovete andare? Dove dobbiamo andare? Osbeon. Come cazzo si chiamava l'isola? Ad Esbosan? Esatto. Glielo dici? È questa la domanda? Sì, perché qualcuno ha appena detto menti. Non lo so, cioè nel senso stavo parlando in meta, cioè nel senso penso che abbiamo già deciso, però se vogliamo ruolarla la ruoliamo eventualmente. Vai. Non abbiamo avuto modo di decidere, quindi cioè, non abbiamo avuto tempo per farlo. Abbiamo deciso dove vogliamo andare. Ah, ok, quindi serve proprio una barca per voi? Mm-hmm. Sì. Se c'è è meglio, però col tempo che c'è onestamente forse sarebbe meglio affidarci ad un'imbarcazione più grande, di qualcuno un po' più capace. Non vorrei finire in tempesta con una barchetta. Se avete dei soldi da buttare, c'è un pescatore di Porto Leone che sta per salpare, cioè sta cercando una ciurma, una missione, qualcosa da fare. Si chiama, ha un nome berber, Clap Clap, un nome del genere. Lo trovate al Molo 4. Se ci può aiutare, saremmo lieti di aiutarlo la nostra lieti? Volta. Tiro un ceffone da dai! In una maniera molto vaga. Vabbè, tutti. Violenza tutti. Sulle donne. Perché a donne ora... Ok, la ringrazio allora per le informazioni. Vi saluti la famiglia. Porgo la mano per stringergli. La stringe back, non stringe forte come te, ma fa del suo meglio. Un'ultima cosa. Ci sono dei brutti ceffi che stanno cercando. Che ci stanno cercando. Se possibile, metto le mani avanti. Chiaramente non abbiamo fatto niente di male. Però gente da fuori della città ci sta cercando. Se possibile non ci ha visto. Sì, non sono amico degli stranieri. Ti fa l'occhiolino. La ringrazio. Spero ci potremo rivedere. In bocca al lupo. E vi salutate. Buon lavoro. Poi Adone si va vicino a Nibel e fa: ma dovevi veramente dirgliela l'ultima parte? Quando siamo abbastanza distanti. Ci non sono si può fidare di nessuno. E appunto, nemmeno di qui. Ma la gente di Apeira non vede di buon occhio quelli da fuori, quindi... Il Molo 4, ti ricordi, è questo qua. Quindi non è il più vicino, però è lì. Allora guido gli altri verso il Molo 4. Rollatemi percezione. Percezione. Dai Adone. Comunque uno più di Adone. 5. Poi c'ho io. Solo un 4 vale. Ok, solo mi fa un numero alto, mi sembra. Sì, hai fatto 10. Okay, io ho un 5. 12. 12 basta, gli altri no. Solo Miff si rende conto che la figura volante di prima sta atterrando in prossimità delle guardie che avete steso. La vola è arrivata. Dobbiamo sbrigarci. Abbiamo poco tempo. Devo prendere più spesso quella roba che è andata quella. Non prenderla mai più, Piff. No, è fantastica questa sensazione. Ne avresti bisogno. Tipo, ti mette una mano sulla spalla. Fidati. Alza gli occhi al cielo, Liro. Cioè... d'accordo, Miff, come dici tu. Rilassa tutto. Siete a metà strada. Sarebbe piacere a tuo marito. E a me mi piacerebbe. Sto io sopra, quindi. Tipo, e se ne va via. Wow. Non è quello che ho chiesto. Too much information. Non ho capito, se ce l'avevi con me non ho capito. No. Cioè, lo dici ad Adone? No, se, cioè, mi stavo soffiando il naso. Quindi No. Le orecchie letteralmente non ho sentito. No, non ho parlato di cazzi loro, fondamentalmente. Sono un po' in brain fog per la sinusite. Mi spiace. Ok, siete quasi arrivati al molo 4. E visto che ci avete fatto caso a quella cosa lì, vedete che risale in aria. E stavolta sta guardando nella vostra direzione. Mi saluta. Addio po'. Tizia, adore da una parte e linea dall'altra. Rollate tutti per nascondere. Oh mio dio. Quando serve Adone che porta a casa la pagnotta. Giustamente Nibel tipo è inciampato sulla campana. C'hai un altro prowess. Lo uso. Vai. Io ho fatto 17. Posso usarlo anche per le prove di agilità? Sì, rosso e giallo, rosso e verde mi pare. Ok. Vai. Trollo ce l'ho. L'agilità o fisica? Abilità o fisica. Okay. Non cavalcare, bensì nascondersi. Ok. Perfetto. Avete avuto degli ottimi riflessi e appena si è alzata in aria vi siete messi tutti dietro la chiesa. Questa qua è una chiesa. Sta a questo edificio grande. Okay. E l'edificio della chiesa c'ha degli alberi intorno, quindi siete proprio estremamente schermati. Siete pressoché invisibili dall'alto. Quello che vi frega è che da qua al molo manca ancora un pezzo scoperto. Aspettiamo che scenda. Entriamo in chiesa e chiediamo delle tonache. Vogliamo diventare adepti. Altrimenti, se volete, posso provare a distrarla con il mio famiglia. Buona idea. Di chi è la chiesa? È la chiesa è una santa chiesa minore. La cattedrale di Apeira è al centro, questa è la chiesa sussidiaria. Ok, e sicuramente c'hanno un saio da mettere, con un bel cappuccio. Sì, ma andiamo lì, fuori. Vediamo che non ci siano portare via. Esatto, cioè, assicuriamoci che non ci siano offerte questa volta, soprattutto, cioè, cartelli. Dobbiamo guarire Miff dalla drogatura. Si può giocare così. Vorrei tirare uno schiaffo, ma non voglio. Sì, io vorrei, ma non è no. Non è passato tanto tempo, ragazzi, almeno 6 ore per questa cosa. Sì. Lieto direi che entrare nella chiesa per vedere se c'è qualcosa che li possa aiutare. Ok. Gli altri tre? Infatti anche sì. Sto fuori. No, sai cosa? Io accompagno Lieto, Linea, non so se sa mai cosa voglia fare. Ok, vi state separando temporaneamente. Again. E mi continuano a cadere i dadi, non mi è mai successo così tanto come oggi, cioè proprio le mani di merda, sono stanco. La chiesa all'interno è esattamente una chiesa, una santa chiesa standard, piccina, quindi c'è un tabernacolo e delle panche e dei triangoli, cioè tutti i motivi della chiesa sono triangolari. La Santa Chiesa in realtà è abbastanza opposta alle effigie sacre. Questa cosa va a troie nella parte sud del mondo, dove no amount of explaining will stop them from using effigie sacre. E infatti c'è pieno di santi e cose varie che sarebbero tecnicamente blasfeme. Questo è lore e contesto. E il sacerdote è rigorosamente un uomo, con vestiti bianchi e motivi triangolari in varie parti della toga. Ci sono alcuni fedeli e al momento il sacerdote sta parlando con 3 di loro, uomini e donne. E li ammazziamo tutti, rubiamo i loro vestiti. No, Linnea si spinge fino al si sgomita un po' dai fedeli, tipo, padre, padre, abbiamo una, ho una richiesta urgente, se, se vi può aiutare. Cosa ti può servire? Ci sono dei bruttissimi ceffi che stanno seguendo me, la mia amica e alcuni nostri persone fuori. Stiamo cercando di andarcene senza farci vedere, ci importunano spesso. Non avrebbe per caso qualcosa, qualche vestito, qualche tonaca qui? Io faccio un attimo fare un passo indietro a Linnea, guardo verso il vescovo e dico... Ignori la mia amica, ha bevuto troppo. L'uomo? Semplicemente sta piovendo, ci stiamo bagnando. L'uomo? Ha estratto la spada. e dice... Non tollero che una pecorella venga infastidita da lupi. Io... No, no, no, è andato tutto a puttana! E ci siamo già stati dalle signorine, quindi... E allora a quel punto dice, no, davvero, padre, molto gentile. Portatemi da loro. No, no, no, no. Signori, padre, molto gentile. La mia amica, e tiro un buffetto in testa a Linnea, non è come sei adesso. A noi ci servono solo delle tonache perché ci stiamo bagnando. Dobbiamo viaggiare ancora un pochino e volevamo chiedere se per favore avesse dei vestiti da darci, giusto per coprirci dalla pioggia. Siete certe? Noi siamo certe, padre, molto gentile. Rinfodera la spada con un po' di fastidio. Poi era pronto, era il suo momento di fare la crociata. Un templare. Sì. Si mette a posto i capelli biondi. Vuoi chiedere il cognome di quest'uomo? Come era si facile. Chiama? Non c'è ancora il nome. Schumacher, Schwarz, non lo so. No, Silvia, mi stai deludendo. Mi stai deludendo tanto. Mi stai deludendo parecchio. E chi? Non lo so. Si chiama Pancrazio Petri. Lei è della famiglia Petri. Certo. Mi stai dicendo che è The Rock, tipo Pancrazio, no. È la lotta greco-romana, tipo, quindi un wrestler The Rock. Come un fabbro. Esatto. Torno serio? Signor padre Pancrazio, Petri. Pancrazio. Sono sempre felice di aiutare delle donzelle in difficoltà. Sì, dovrei avere dei vestiti in più per voi. E va effettivamente in un armadio, tira fuori 4 tuniche bianche, quindi danno molto nell'occhio, ve le porge, 2 e 2, e ti porge anche un rosario a Linnea. Rosario da tante palline e un triangolino di una pietra azzurra. Grazie, grazie, padre. Grazie. Prega Dio e lui ti proteggerà. Grazie, padre. L'unico vero Dio. Nessun altro Dio è fuori di lui. Ci giriamo e facciamo per uscire. Adone sta ritacchiando sottovoce. Lo senti che sta cercando di trattenersi, però sta facendo un po' fatica. Ha delle gruppi adesso intorno. Sto tipo, no, padre, è stato così, così uomo, così quando coraggioso. Siamo fuori dalla chiesa, mi avvicino all'Inea e dico aspetta, diciamo, cazzo, ah ok, volevo fare la scena fare fuori una battuta. Ah, no, okay, dico all'Inea, dico, glielo diciamo che tu sei l'avatar di un dio e io ormai siamo lì ridendo. Però comunque non dire queste cazzate, non fare la stessa figura di bel cazzo. Mi sembrava una buona idea alla fine, potevamo anche liberarci. No, noi dovevamo mandare il vescovo contro Maria, ma non c'entra nulla. Su, ci avrebbe difeso da Maria. Lui! Quello mena come un fab, si vedeva da lontano. Vabbè, andiamo a dare questi tuoi. Vabbè, fuori. Facciamo tipo... Esatto. Fuori nel frattempo, Miff e Nibel sono rimasti a fare la guardia. Quella che evidentemente è Maria... È in aria e si sta guardando intorno nella vostra direzione circa. Mi so che tipo fa il dito medio, no? Che in casa si veda. Vuoi giocare col fuoco? Tanto ormai. Guarda che... cos'altro sotto a sto mare. Cos'è che fa di bene? Che basso la mano, tipo. No. Che stava facendo... Quanto ti disprezzo. Va bene. Volete fare qualcosa mentre fate la guardia? No, io rimango proprio spalle al muro e guardo nella direzione sua per vedere se sta facendo movimenti che mi faccia dire ok, dobbiamo correre. Più del normale. Al broncio. Perché mi è abbassato la mano, quindi si mette tipo così. Meno ci muoviamo e più siamo nascosti, quindi approfittane, cioè falle, mandala cagare quando siamo sicuri che non ci possa vedere. Ok, va bene papà. Ancora una volta vedete che avvicina la mano alla testa scuotendola e riscende. E dopo pochi secondi che succede questa cosa escono gli altri due con 4 tuniche e un crosario. Non abbiamo molto tempo. Avete trovato qualcosa? Questo è il meglio. Ti dà la tunica più grande che è a disposizione della chiesa, che probabilmente per te è tipo sì, metà del corpo. È tipo... La prendo, la guardo, guardo loro, guardo la tunica, riguardo loro. Siamo andati noi due a cavaldonato. Cavaldonato, metti la tunica e non rompe coglione. Mi piace l'idea che ti arrivi qua ed è tipo Shrek e che ti fa tutto, quindi è tutto. Poi ho pure il cappotto, quindi la devo mettere sopra il cappotto, quindi è tipo così, tutto rigido. E se possibile abbassa le ginocchia, così magari ti copre un pochino anche di più, non è così ridicola. Forse andiamo adesso. Se pletti i muscoli potrebbe esplodere, ma tipo buco nero, capito? Cioè proprio una roba... Vabbè, ci siamo. Mi tengo un po' non so, c'ha un cappuccio anche la tunica oppure no? Sì. Mi tolgo il cappellino, lo metto nello zaino, tipo mi metto il cappuccio e rimango un po' ingobbito e con gli altri, se qualcuno di voi ride, gli spezzo l'osso del collo. Dico che stavo già iniziando a dove sta anche abbastanza sguaiatamente. Non c'è pena. Cioè... Sospiro e inizio a camminare, cioè vado avanti. L'idea smettila, non fa ridere. Aspetta, accorto che sto perdendo un polmone. Facciamo pausa ora o fra un attimo, come volete. Pausa adesso, perché... Adesso vado a prendere da bere. Anch'io. Esatto, devo andare in bagno e ci metterò un po', anche per classici motivi. Questa cosa, abbiamo la pausa programmata. Poi non ho bisogno di una pausa, però se non sai... Podalici. Podalici. Come ti muovi? C'è le stampelle? Stampelle. Sì, esatto. Infatti adesso metto il computer a caricare, perché si sta scaricando il portatile. Come va col piedino? È sempre piedoso. Those are my lines. Fitting. The fit. Sei abbastanza agile, vedo, a metterti a quattro zampe. Quante volte io e te in quella stanza, wow. E quella è la stanza di Spezia, la conosco molto bene. Le equipaggiate. Sì, ha dormito tipo per terra in questo lato, lui su me, ricordo. Vabbè, ci ha dormito più volte, non una volta sola. Sì. Oh, peccato, vabbè, no, insieme, sai, le bromance. Abbiamo fatto anche quello. Vado a prendere il coraggio. Stavano sul letto da quel lato e uno degli altri, non era... Giusto. Ovviamente. Io mi prendo, sì. a trafondo. Sono già tornato, andate via tutti. Teica, tanto ci mette 3 ore a andare in bagno perché è handicappato, nel senso tecnico del termine. Ciao, ciao. Possiede un handicap. Poverino. Addio. Addio. I'll be back. Vai Sirius, Aram speedrun. Abbiamo 3 minuti per fare Aram. Vai! Io comunque sto facendo, andando avanti in AFK Journey, in cui tu devi andare AFK. Solo che raga, va avanti dalle 9, io sono lì. Quanto, cioè, fermati una certa. Il mio team di Froci. È mutata. Bravissimo. Ho letto la bestemmia tra le labbra. Ho detto posso vorrei che fossi io. Ah, il mio team di Froci? O tu venire a mangiare? Libera interpretazione. Va bene. Libera interpretazione. Vai, dimmi, in serio. Vi immaginate che adesso faccio per metà campagna Adone Donna? Cioè, oggettivamente... Una buona vocazione. No, vabbè. Eddie, vabbè. Dead name. Sirio troverà sempre il modo di fare un personaggio trans. If there's a character, there's a transition. Wow. Wow. No, è che, sapete, oggettivamente, in questo momento, non potevo giustificare che Adone si alzava e si cambiava aspetto. Cioè, no, scusate, c'è Maria alle calcagna, ma no, mi fermo un secondo a cambiare aspetto. No, sono d'accordo. Sì, lì sono d'accordo. Quindi, cioè, divertentissimo. Ti immagini che torna da Silas così? Ciao, Silas. Ma Silas sarà morto, intanto. Silas, cioè, non è morto. Ma Silas primo. È morto. Silas lo stanno usando come batteria. Appunto, quindi significa che appena lo stacchi crepa. Cioè... No, letteralmente abbiamo la dimostrazione in game che non funziona. Quando? Allora... Però... Se fate il passo sbagliato, sì, cioè nel senso quello che è successo alla Maglica. Ascolta, a giocare con i giocattoloni. Gli dico, senti, dai, sono il tuo fratellino minore, dammi una mano. Bello. Non sai chi è Temo, vabbè. Non guardarmi così. In che senso fratellino minore? Libera interpretazione. No, ci puoi arrivare, Avo, cioè. Lo so, infatti io ero tipo... Il nostro forbidden knowledge. Esatto. Ho un'ora e di... un'ora, quando torna Ika, per far usare una memoria a uno di voi. E perché sarò proprio io? No, adesso vediamo. Una pizza, cos'è? Infatti pensavo fosse una pizza, no, un quaderno. Okay. Con dei disegni buffi sopra. Questo? Il calendario infatti... dell'avvento di One Piece. Che bello. All'interno ciao, cioccolatini One Piece. Che figata. Il 25esimo è il One Piece. Puoi aprire la porta sulle tette di cosa? Cioè, dimmi che c'è che si può aprire. E qua. Sulle anche su quelle di Nico Robin. Che bello, che bello. Sotto devi disegnarci la versione. Nico Robin l'ho già aperta. Sono il 9, quindi devo aprire il 10. Vediamo cosa c'è, perché ogni cioccolatino ha una forma diversa. Tu cazzo del 10. Perché non li fanno in ordine? Il calendario dell'avvento di One Piece? Sì. Io c'ho quello della Paw Patrol. Ma sapete che non ho mai avuto un calendario dell'avvento? Cioè, ma questo è il mio primo calendario dell'avvento. Quelli taroccati dell'Eurospin. Wow. Tanta roba, eh. Quello del Paw Patrol vuol dire che l'ha fatto... La grafica l'ha fatta Ron, cioè la traduzione l'ha fatta Ron. Quel pezzo di loro è incredibile. Ogni assurdo. Tanto ci penso. Che bello, cos'è? Che super. Una bandiera. Era il, come si chiama la seconda nave della Ciurma? Jolly Roger. Con sì. Leone. No. Quella del con Leone. Sunny. Thousand Sunny. No. Ti sei fatto male, Ica? Quando sei caduto dal cielo. Bravo. Sto per dire io. Wow. Ora baciate. Stai parlando dell'angelo, stai parlando. Non so perché Discord fa così tanta fatica a caricare la webcam di Sirio. Sì, perché la webcam è rotta, cioè cliccate due volte. Ma no, se c'ho l'immagine piccina, perché vi tengo tutti quanti, la sua non carica mai. Se clicco sulla sua, lo vedo benissimo. Cioè, adesso vedo sì che è enorme, sì. Gigantesco. Se poi torno indietro, si va il fatto tipo... Esatto. Cioè, non capisco perché è responsabilità mia farla vedere, cioè quello è il fatto. Cioè, la cosa che non mi è chiaro. Oh, scusami, non parlo se non mi vuoi vedere. Ma no, non è quello il fatto, è solo strano. No, non lo so neanch'io perché. Ma poi, forse perché sono quello più in HD di tutti, però boh, cioè. Boh, può darsi. Sì. Ti abbassano la qualità? Vabbè, ma... No, dai. Prova a metterla a 720. Però tecnicamente, cioè, Discord dovrebbe mettere a 720 massimo, se non hai il nitro. Fa 4000. Sì, ce l'ha in 4K. No. Non è in 4K sta merda. Riprendiamo o abbiamo bisogno di un minuto? Vediamo se riusciamo a mettere a posto sta roba della webcam, almeno. Come volete, come volete. Ok, dai, prova a vedere se riesci, ma ma come faccio io a sistemarlo? Ecco, si è bloccato. Porca sì, troia. Video settings. Video. Perché una volta c'era scritto direttamente nella. Cioè, quando poi dirò streaming, ti diceva tipo: stai streamando in. Insomma, no, ma non devo streamare effettivamente. Non si su mi streamare. No, io non ce l'ho l'opzione per scegliere la qualità. Sto vedendo, ma neanche io. No, no, una volta quindi... c'era però la cosa. Sì, me lo ricordo. Ora TeamSpeak. No, non ce l'avevo avuto le webcam. Non ce l'aveva neanche. Non ce l'aveva. Vabbè. Stiamo così. Con Sara e il suo spazio orbitale. Vabbè, faremo noi. Sì, io ti vedo malissimo, ma sta succedendo? Ho messo Discord bianco. Oi, meme. Per sbaglio ho cambiato tema, cioè avevo Discord tutto bianco e mi sono sentito male. Scusate, riprendiamo. Siete fuori dalla chiesa, vi siete cambiati i vestiti, cioè vi siete messi delle tonache sopra e dovete dirmi cosa volete fare. Io direi che andiamo tipo in simil preghiera verso la barra, verso il molo che volevamo raggiungere. Credo di sì. Sì, dai, insomma. Io mi metto anche il rosario nelle mani, giustamente. Come vedete dalla mappa, c'è uno spiazzo a Pirenia, che in realtà è una zona leggermente sollevata, ci fanno il mercato per Nibel, lo sa voi meno. E da qualunque punto di Pirenia è visibile questa piazza. Anticamente c'era una statua, infatti c'è rimasto il piedistallo al centro, la statua non c'è più. E proprio su quel piedistallo, a terra Maria. Mentre voi state camminando verso il quarto molo. Quindi è davanti a noi? Dietro di voi. Noi continuiamo. Dietro a destra. Ok. A ore 5. 4 e mezza. Biff ci sta vedendo? Tipo, non ho gli occhi di la testa, è tanto fatto. Andiamo avanti. Avanti. Okay. Avanti. Che divinità ci sono qui? Questa è l'unico dio, questo. È la Santa Chiesa, questa. Dobbiamo pregare la Santa Chiesa. Mi dissero, sono ancora novizia, Leto. Perdona. Esatto. Che bello che riuscite a scherzarla. A scherzare su questa cosa. È così difficile ruolare un personaggio che si è drogato e non deve prendere nulla sul serio. Grande, madonna. Sì, abbiamo salutato. La donna alle vostre spalle. La donna alle vostre spalle. Non so se riuscite a vederla, probabilmente no. Però ve lo dico. Ha messo la mano sulla testa. E sta dicendo con un tono di voce abbastanza alto che riuscite a sentirlo. Shibira non li vedo. Quanti hanno detto che erano? 2 su 3? 2, 2. Si sono separati? Non li vedo. Cosa volete fare? Dividere? No, dai, no. Io sì. Continuate diritti. Non preoccupatevi di tutto fino a molo. I tizi adesso si è scritta dei primi due. La tutina di Inter. Sentite che dice Shibira. Protocollo Armageddon. Chiedo il permesso. Vediamo un pochino più veloce. Tipo... Stiamo accelerando. Yannice, posso... fare Future Glimpse? Certo. Per vedere cosa vuole fare, cos'è... Certo. Devi fare dei roll? No, vero? Due minuti. Ah, certo. Devo chiudere. Vai, vai, vai. Leggiamo gli effetti della spell. Se cariche, puoi spendere una carica e prendere avverso un attacco. No, va okay, benissimo. Non... Sì, va benissimo. Ah, okay. Come siete. Perché c'ha una parte roleplay, diciamo, che è quella che... Certo. Spendi un'azione extra e hai... 4 cariche, costa 2 di mana, okay. Quindi vai a 0 di mana, scusa, 5 cariche, hai 26 di fatica da spendere. Non posso già usare la fatica, vero? In realtà puoi. Sì. No, ok, spendo il mana. Ok. Davanti a te viene chiara una visione, che è quello che succede se ora tu non fai un cazzo di niente. In questa visione... Come faccio a dirla se non in termini di LOL? Cioè, Katarina fidatissima. Tradotto. Maria estrae un numero altissimo di spade e le lancia a tutte le persone a Pirenia. Bianic. Tempo si riavvolge di 4 secondi. Chiedo il permesso, sta dicendo. Posso girarmi verso di lei e usare la memoria? Così? Perfetto. Così. Non ho la musica adatta, devo prenderla. Dammi un secondo. Stiamo registrando, vero? È registrata. Sì. Ottimo. Questa voglio. Com'è possibile che... Ah, ok, mi è partita sul mio, ok, infatti non capivo. Non avevo premuto un cazzo. Prima facciamo la memoria, poi facciamo l'interazione. La tua memoria risale a quando avevi 4 anni. Hai cancellato completamente questo ricordo, che sta riaffiorando solo adesso. Oh. Anzi, c'era proprio un cutout della tua memoria a questo punto. Quindi tutti i tuoi ricordi erano successivi a questo momento. La memoria inizia una notte d'autunno, quindi nelle tue parti molto freddo, in cui ricordi che i tuoi genitori stavano litigando. Tuo padre in particolare le stava urlando contro tua madre, e le diceva: Promezia, smettila con questa cagata, ci farei ammazzare tutti, dobbiamo abbandonare la corona e non tornare mai più. E lei rispondeva, giustamente, da Queen, qual è? No, è l'unico modo per assicurarci che vada tutto bene. Dobbiamo salvare noi il mondo. Non dobbiamo salvare un cazzo. Abbiamo un figlio, abbiamo un'attività commerciale, non dobbiamo fare nient'altro, solo quello. Pagheremo il pizzo quando serve e non faremo altro, hai capito? Le mette proprio le mani addosso. E lei, tra le lacrime, annuisce. Quella notte, quindi poche ore dopo, perché era una sera d'autunno, tu stavi già dormendo, eri nel tuo lettino in un'altra stanza, e nel silenzio emerge dall'oscurità tua madre, vestita di nero, che ti fa segno di stare zitto. Sei un bambino piccolo, quindi ti prende e ti veste di nero, vestiti che non hai mai visto prima, cioè non avevi mai indossato quei vestiti, e ti porta fuori casa. Camminate per un po'. Se sei stanco, lei ti prende proprio in braccio e ti porta in braccio. E col tempo, gli anni dopo, conoscerai a memoria questa strada, perché Falchena è la tua città e la conosci. All'epoca per te stavi andando in un posto, non era chiarissimo, che stavi andando al cimitero. E proprio alle porte del cimitero di Falchena tua madre incontra un uomo più vecchio di tuo padre, coi capelli brizzolati, la barba quasi completamente bianca, non particolarmente vecchio, solo chiaro di pelo. Lo conoscevi anche per nome, in questo ricordo sai benissimo chi è, perché è un amico di tua mamma, meno di tuo padre, diresti un conoscente di tuo padre, un amico di tua madre, un caro amico di tua madre. E lui ti chiama per nome, piccolo Adone, è molto gentile come con te, è uno zio nella tua... Ma il suo nome? Sì, ma ne parliamo più avanti. Ne parliamo più avanti. Capito, va bene. Non è Azmo Flower. Perfetto, ok. Ok. Promezia lo guarda e dice: l'ho portato, tutto pronto? E lui, con una voce molto dolce, molto rincuorante, molto espansiva, dice: sì, gli altri sono già tutti dentro, tutti ai loro posti. È tutto pronto, manca solo il piccolo Adone. I cancelli del cimitero si aprono, cammini tra le lapidi, c'è una leggerissima foschia, non sta piovendo, è molto freddo perché è fine autunno. Non si vede lontanissimo, un po' per il buio, un po' per la nebbia. E però il piccolo Adone vede una decina di persone, tutte intorno al centro del cimitero. E negli anni dopo ricorderai che al centro del cimitero c'è una statua, un qualcosa del genere, che ora non c'è. C'è uno spiazzo. In quello spiazzo c'è un cerchio tracciato per terra, molto largo, larghissimo, diversi metri di diametro, tanto che arriva quasi a sfiorare le tombe più vicine a questo spiazzo. Gli uomini sono posizionati come ai numeri di un orologio. E facendo un rapido conto, sono 12 persone. Per terra, oltre a questo cerchio, ci sono dei simboli che per te non vogliono dire nulla, sono righe, curve, cerchi, croci. E tua madre ti esorta ad andare avanti. Vai, Adone, non avere paura. Ok, mamma. E Adone va avanti. L'uomo, quello con la voce gentile, inizia un canto da chiesa, mormorato. non hai idea di cosa stia dicendo, e vedi che queste righe per terra iniziano ad illuminarsi. Prima un flash bianco e poi hanno un glowing rosso. Tutti gli altri lì iniziano a ripetere la stessa cantilena, tutti insieme. Adone sta guardando sua mamma un po' preoccupato, Chiara. Cioè, la paura che avrebbe un bambino in una situazione del genere. Lei ti guarda con lo sguardo più rassicurante che riesce a fare mentre continua a cantare. E poi, dal cerchio emerge una figura. Ti giri a guardarla, non puoi evitare questa cosa, evitare di girarti. E solo tu noti che non è una figura, sono due figure che cercano di occupare lo stesso spazio. È una cosa estremamente complessa da visualizzare. Del nostro fantastico mondo del 2025 glitchano nel loro magico mondo del 1600, è una cosa che sfida le leggi della fisica. Le due figure sono molto diverse tra di loro e ti porgono la mano. Le loro mani sono coincidenti. Adone si gira un attimo verso la mamma. Prendila, Adone, prendi la mano. E allora Adone prende la mano. Riesci a sentire questa cosa. È come ti tocca una mano sola, ma contemporaneamente è fredda e metallica, ma anche ruvida e calda, come la mano di un contadino, di un artigiano, che è una mano che ha lavorato tanto. E questa cosa impossibile, questa sensazione tattile assurda, fa scattare qualcosa nel tuo cervello e improvvisamente vedi le due figure. Le riesci a vedere distintamente nonostante siano nello stesso punto. E adesso, nel tempo attuale, Adone ha questa visione. Vede la segna tempo, quella che all'inizio del gioco mandava avanti il tempo, e vede che la mano davanti alla segna tempo è la mano che ti stava toccando. E vedi che le due figure sono, da un lato, evidentemente il dio del tempo, e dall'altro, evidentemente, la creatura che hai visto nelle tue allucinazioni quando hai toccato quel cuore. Te lo ricordi, lo avevi già visto. Sì, non te lo potevi ricordare perché avevi eliminato completamente questo ricordo. Avrai bisogno di sessioni di psicologia, di psicoterapia per sublimare la cosa. E l'entità, con due voci distinte che parlano rimbombando nella tua testa, dice: sei qui per un patto? Adone dice: quanto è spaventato Adone oggettivamente? Quanto vuoi tu? Se vuoi se vuoi chiedermi se è la prima volta che tua madre ti fa fare una roba del genere, no, non è la prima volta che tua madre ti fa fare una roba del genere. Non così drammatica, ma tua madre aveva la simpatica abitudine, ora ti si è risvegliato il ricordo, di farti fare delle cagate metafisiche di questo genere. Cos'è un patto? Cioè, nel senso, non so cos'è un patto, ma tipo, no. Mia mamma mi ha già detto... Adone bambino, non hai idea di cosa sia. E allora Adone bimbo chiederebbe... Cos'è un patto? Un accordo fra di noi. Sto pensando sempre a 4 anni quanto raziocinio c'hai, effettivamente. Tua madre da dietro. Adone, fallo! Ok. Sì, sono qua per un patto. Ora afferra la tua mano. La stringe in modo dolce, cioè come se stessi accompagnando un bambino per strada e non volessi che questo prenda e va sotto una macchina. Quindi quel livello di fermezza. E avverti una sensazione strana, umida. E vedi le persone che sono dietro questa figura, che il sangue sta uscendo da tutti i loro orifizi, dagli occhi, dal naso, dalla bocca, e il loro sangue viene assorbito dalla creatura. Vedo Adone si mette a piangere. Genuinamente. Tua madre è alle tue spalle, quindi non la vedi. No. Ti chiedo se ti vuoi girare. Certo, io non so, ma a questo punto credo che Adone faccia tipo uno strattone e si gira verso la mamma piangendo. Cioè. Succedono due cose. La prima è che vedi il volto di tua madre perdere colore, diventare sempre più bianco. Quel marmoreo in realtà era un corpo senza sangue, che ricordavi nei tuoi sogni. La seconda cosa è che senti delle catene afferrarti e una fitta sull'occhio. Ora, non mi ricordo da che lato ce l'ha, destro o sinistro? Questo. Destro. No, allora, vedi, cioè, l'occhio sinistro, oggettivamente, okay. Questo. Ok, sul lato sinistro senti una ferita, come se ti avessero accoltellato, ma in maniera meno drammatica, ok? Cioè, come se ci fosse un taglio profondo, ma non spesso. E la figura dice, non distrarti. Adone continua a piangere e cioè, cerca di tirarsi via, chiaramente. Le catene ti tengono fermo al terreno. Le luci dal cerchio diventano quasi accecanti. Non riesci più a vedere tua madre, non riesci più a vedere le persone dietro. Vedi solamente questa palla enorme di sangue fra l'altra stretta nell'altra mano della persona, davanti a te. Che la stringe e in un certo senso la consuma. Si inebria di luce blu, completamente. E dice, il mio nome è... E senti due voci distinte dire, Sadak ed Arva. Io sono qui per darti quello che tua madre avrebbe voluto. L'apoteosi. Con il dono di 12 anime, questa è l'inaugurazione di un nuovo dio. Il ricordo va scemando a questo punto. Adone, poco dopo questa interazione, perderà i sensi. Ma farà in tempo a sentire. Ci sono degli effetti collaterali. Per esempio, ora potrai accedere ad altri domini. Quelli che sono esclusivi degli dèi e delle creature che vengono da fuori. Quelli che gli umani possono vedere ma non possono toccare. E quelli che noi possiamo vedere ma non possiamo toccare. Le due voci dicono due cose diverse ancora una volta. Una dice l'inferno e l'altra dice i sogni. Fast forward. L'assegnatempo manda avanti il tempo fino ad oggi. Cristo. E quindi... Quindi riprendiamo questa cosa. Sei nel presente, hai avuto questo ricordo, è come se si fosse sbloccata una parte di te che avevi sepolto nelle profondità della tua memoria di 30 anni fa. Allargando le braccia, riesci a fermare il tempo. Tutto davanti a te si blocca, le goccioline di pioggia rimangono ferme a mezz'aria, i tuoi amici che ti stanno cercando di fermare per evitare che tu vada a suicidarti contro la psicopatica di Oclica sono perfettamente immobili nelle loro posizioni plastiche e rigide. E la giovane donna dietro di te ha una mano sulla testa e stava per pronunciare la parola Armageddon quando si è interrotta. Il tuo corpo sta mutando, non ne hai la percezione completa, ma se guardi in basso vedi che le tue vene sono blu e luminescenti. Adonis si guarda un attimo il corpo, guarda quello che sta succedendo attorno a sé, ma sa bene cosa deve fare in questo momento. E si dirige verso Maria. E... Allora, ti dico a livello di roleplay quello che vuole fare Adone, poi non lo so effettivamente cosa può fare, perché non ha un'arma con lui, Adone, in questo momento. Hai delle simpatiche braccia di metallo. Infatti. Quindi... Adone vuole andare fino da Maria e vuole darle un abbraccio, come ha fatto con Riegel, come ha fatto con sua madre. E usare il braccio per fermarle il cuore in qualsiasi modo possibile e inimmaginabile. Sei una donna, cioè nel corpo di una donna ora. Ok. Quindi, due ragazze che si abbracciano quasi dolcemente. Una delle due è completamente coperta di sangue, sporca, lurida, maledetta. L'altra perfetta, come se fosse il primo giorno che cammina sulla terra, con le sue braccia metalliche nuove di zecca. Persino i suoi vestiti sono stati sfigurati e alterati per essere un qualcosa di steampunk e moderno. L'abbraccia effettivamente con dolcezza. Sì, si sono sciolti per fare questa cosa. Ah, ok, ok. Sì. L'abbracci dolcemente e da dietro la schiena affondi le dita nella sua schiena. Scavi all'interno del suo corpo, le prendi il cuore. Lo vuoi strappare via o lo vuoi stringere fino a farlo scoppiare? Momento Maki, ma lo voglio strappare via. Momento, a me piace di più, Killua. Sì. Hai il suo cuore in mano e lei non ha nessuna reazione, il tempo è immobile, il cuore non batte, è perfettamente fermo, il sangue non esce fuori, anzi le gocce di sangue che si tolgono avendo fatto questo gesto rimangono a mezz'aria, facendo una scia impossibile. E stai fissando, mentre l'abbracci con una mano, il suo cuore. Adone pronuncia queste parole e dice: mi dispiace, ma non posso permetterti di uccidere tutte quelle persone. Però spero che questo abbraccio ti sia dolce. Cosa fai col cuore? Adone a questo pensiero. Non è Arva, non consumerà il cuore, quindi semplicemente lo fa. Lo scoppi. Ok. La tua mano è come se fosse idrorepellente al sangue, che scivola via appena te allontani, e lascia una sagoma a forma del tuo braccio di sangue in quel punto, con tutti i brandelli di cuore intorno. Stai camminando verso i tuoi amici a questo punto, e il tempo è continua a essere immobile. Senti che lo puoi far ripartire in qualunque momento. E senti che c'è un pericolo ancora. Lei non era sola. C'erano altre persone con lei. Altri soldati, altri suoi superiori. E senti di avere una forza sovrumana in questo momento. Di poterli trascinare dovunque tu voglia. Una domanda, Bianic. Posso consumare l'anima di Maria? Vuoi provare a farlo? Nel momento in cui l'abbraccio, sì. Ok, però rewind. Ti dico solo una cosa, a livello meta, se consumare la magia mi fa immediatamente togliere il tempo, sì, sì. Magari no, okay. Ecco. A consumare l'anima, scusami. Quando hai ancora il cuore in mano e lo stringi, è proprio questa la tua idea di consumarlo. E senti che quello che hai percepito con Rigel, quello che hai percepito con quelle 12 persone, se quelle due cose che erano completamente diverse sono anime, non c'è niente del genere dentro Maria. C'è una forza, un qualcosa, uno spettro, un'anima, un qualcosa, che non hai idea di che cosa sia e non hai idea di come fare a toccarlo o interagirvi. Non ha un'anima? C'ha qualcosa, ma non è un'anima per quello che hai visto finora. Allora fa la stessa cosa, anzi, ha maggior ragione, fa tutto quello che ha fatto proprio perché non ha più un'anima. Perfetto. Te l'avrei detta comunque questa cosa qua, te l'avrei detta alla fine. Perfetto. Allora, ok, torniamo alla fine, non è successo nulla. Sei insieme a tutti, c'hai tutti gli altri davanti. Adone non vuole uccidere altre persone. Lui in questo momento credo che vorrebbe solo portare i suoi amici sulla nave e farla salvare. Dammi un secondo. Facciamo un'immagine in mente. Eccolo qua. Adone fa questa cosa alla Tokyo Ghoul, secondo me è molto figa invece, quindi vaffanculo, per una volta reato di Tokyo Ghoul. Va benissimo. Tutti e tre, uno sopra l'altro, li prendi in braccio e li trasporti, camminando con una lentezza disarmante. Passi di fianco alle decine di persone che erano state allarmate dagli ultimi avvenimenti, che immobili stanno guardando verso Maria e non verso di te. Non ti interessa minimamente di niente di quello che sta succedendo intorno a te, ma cammini solo verso la barca. La riconosci subito perché c'è un berber a bordo con tutti i tatuaggi, delle cicatrici. Riconosci che è la persona che stavate cercando. Controllo io il tuo personaggio per velocizzare questa scena. Posizioni tutti e tre i tuoi amici sulla nave. Prendi per un braccio quest'uomo, lo porti dentro la nave, stacchi l'ancora, insomma fai tutte le preparazioni tecniche per far partire la nave, slacci le vele, e poi come se fosse un gesto normalissimo fai ripartire il tempo, che riparte lentamente. Hai tanti secondi durante i quali tu hai completamente il controllo che avevi prima, la velocità che avevi prima, e gli altri invece sono ancora in una situazione di gelo. E quindi passo agli altri. Quello che avete visto è che a un certo punto Adone si è separato da voi per andare verso Maria, e un secondo dopo, un battito di ciglia dopo, eravate su una nave e Adone si stava muovendo a una velocità sovrumana per fare i preparativi per far partire la nave, finché Adone non rallenta ed è davanti a voi. E è Adone normale, non ha le cose strane che ho detto prima, non ha il sangue blu, non ha parti metalliche, i suoi vestiti sono strani, cioè non ha più la toga, sì, hai dei vestiti, mi viene da dire steampunk, però capito cosa, quel file di descrivere, perfetto, credo. Come vuoi. Vedete che Adone ha un completo maschile, nonostante il corpo femminile, anzi forse quasi la camicia gli sta un po' stretta effettivamente su un seno che non dovrebbe esserci. E ha praticamente questo gilet in cui vedete che nel taschino c'è un orologio da taschino, lo vedete chiaramente. Ha questa giacca molto formale, molto elegante, con dietro anche la codina. Tipo, avete presente quella del frac, praticamente, corta. E vedete che ha... I toni sono sempre sul marrone, forse un po' più bronzeo in questo caso. Ma vedete che su il gilet ha praticamente è un gilet marrone, ma delle strisce azzurre, piccoline, ma che si vedono. Adoro. E si ferma davanti a voi, appunto. Oh mio Dio, a quanto pare mi ha sballato troppo quella cosa. Cioè, proprio che cioè, l'unica cosa che riesce a dire è ok, no, riconosco di essere troppo fuori, si siede nel punto dov'è. Vado a parlare con il capitano, dovrebbe essere già tutto pronto, gli dirò di portarci al largo. Voi rimanete pure qua, guardatevi. Dietro si gira con l'indicazione di... Non so se riesce a capire dov'è la direzione. A meno che tu non dica Adone. C'è una figura in volo e tipo... Che cazzo è successo? Sì, esatto, non riesci a capire da che lato sarebbe stata. Okay. Dov'è Maria? È rimasta nella piazza. Non ci darà più fastidio. Si vede il corpo. Non credo, perché siamo su una... Cioè, adesso credo che siamo su una nave, quindi secondo me non si vede la... No, siamo distanti, non penso. Ok, finiamo i preparativi, le domande dopo. Ne parliamo dopo. E a Miff, va, mi rolli un D10 di mente. Blu pulito. Scusa, serio. No, sì, vai. Non è importante. Ho fatto 12. Tu conosci il capitano? Lo hai già visto quando hai... Sì, lo hai già visto quando sei salpata verso Ulf. Mi viene il nome. Ufarla, grazie. È Aku Aku. È Aku Aku. Ok. O Aku e basta, perché ormai usa i nomi occidentali. La versione tradizionale era quella, però sono passati tanti anni. E è mega confuso dalla situazione. Si sta guardando indietro e... Biff che fa? Ma è... Qua con... Scusa. Tipo Biff ti fa tanto... No, Adone non sta parlando, no. Ok, a posto. È passato un sacco di tempo, non so se si ricorda quella attraversata ad Uferland con il Leviatano gigantesco e lei che ha fatto qualcosa di veramente figo. Gli hai rubato una squama, me lo ricordo. Sì. Ce l'hai ancora? Sì. C'ho lo scudo dentro. Sì. Ah. Curiosità. E cosa ci fai sulla mia nave? Io e i miei amici volevamo salpare a largo di Alpeira, visto che lei è uno dei marinai migliori che io conosca, onestamente. Pensavo ci potesse portare a... E guarda Nibel. Tu come si chiama il posto? Osperon, come cazzo si chiama? No. Questa è la razione di Nibel. Aesbosan, l'isola di Aesbosan. Esattamente. L'isola di Asperger. In genere si chiede prima di salpare. Quando siete saliti? Bella domanda. Questa è un'ottima domanda. Veramente. Adone. Pochi minuti fa. Ah. Sono sicuro che avrete modo di pagarmi. E va verso il timone. Questo qua è la persona che... Sì. Berbera che stava... Ok. Un mio conoscente ci ha detto che stava cercando qualcuno come ciurma. Se può aiutarla, faremo tranquillamente il lavoro richiesto per salpare. Più eventualmente, se è necessario, dell'altro pagamento. È già al timone, la barca è piccolina, cioè è per massimo 8 persone. È già al timone e girandosi verso te dice: sapete combattere? La caviamo discretamente. Abbiamo avuto la nostra esperienza, sì. E allora vi occuperete dei mostri mentre guido? Sarà fatto. Un Biff che si stende sul ponte, no? E in lingua berber, quindi la capisce Miff, sta cagata, mi sa. Dice: proprio un colpo di fortuna a trovare la ricazza qua sopra. Fa finta di non aver sentito. Rich Beach, forse. Vabbè. Sì, infatti. La stronza. Anzi no, vaffanculo. Miff gli risponde in dialetto stretto: sei fortunato che ti pago anche. Si gira e se la ride della grassa. Proprio contento. Allora, potete scegliere se finire qua la sessione o interagire tra voi. Che ore sono? Le 11:30. 11:30. Come preferite. Sono abbastanza cotte in realtà. Come preferite. Va bene, che dire. Allora vi faccio una scena io. 30 secondi. Certo. Questi vostri personaggi non lo sapranno, ok? Ok. Inquadratura, una scena di un posto molto lontano da qua, un ufficio di Oclica, l'ultimo piano di una torre. C'è una ragazza bionda, capelli molto gonfi, ricci, che ha le gambe incrociate, un dito sulla bocca, e sembra che stia doom scrollando il niente dal vostro punto di vista. Ha gli occhi chiusi, quindi nella sua visione sta facendo qualcos'altro. Vediamo cosa fa mio cugino. Oh, niente. Vediamo cosa fa l'altro mio cugino in carcere. Vediamo Maria, cosa vuoi? Ah, vuoi ammazzare Maria? Maria? Elena, credo che Maria sia morta. Beh, era Pirenia. Ci vedi tu? Va bene, ciao. Andiamo a vedere cosa fa mio cugino. Cambio di scena. Minuti dopo. Una donna con una maschera che vi avevo già descritto da gufo, mi pare, con dei decorazioni blu e viola. Sta camminando al centro di una piazza ghermita di persone. E tutte le persone si sono messe intorno al centro, perché deve essere successo qualcosa al centro. Ma la telecamera evita volutamente questa cosa, mostrando il volto mascherato della donna, mostrando le guardie al suo seguito, mostrando il cielo che si è fatto chiaro, non piove più. E solo alla fine di questa panoramica viene inquadrata una ragazza e inginocchiata con le braccia sulle spalle, infreddolita e circondata da ali piumate che la coprono e sono fatte di lame. Fine.